osteria. Ecco, ma sì, a qual gioia depresso io sento in seno. Ma se c'è l'esso favor, resto confusa. Quanto nel suo pensiero resta confusa.